nell'aria in una serata con tante partite di cartello, l'ultima infrasettimanale di campionato, non era poi così difficile da annusare, ma anziché un ulteriore rimescolamento delle gerarchie, come era in atto da qualche tempo, è arrivata invece la restaurazione della scala dei valori. Adesso l'Inter ha 6 punti sulla Juventus, ne ha 8 sul Milan, che sono in altri termini sono 2 partite di vantaggio sulla Juve e 3 sul Milan, e questi punti ricominciano a essere tanti, anche perché tra sabato e domenica l'Inter riceve il Torino, che è attualmente la peggior squadra del campionato, il Milan gioca sul campo della Lazio e la Juventus riceve la squadra in assoluto più in forma di questo mese di gennaio, che è il Cagliari, anche se ieri la vittoria del Cagliari sul Siena, per la verità, non è stata brillante e nemmeno poi troppo meritata, come invece era stato negli ultimi momenti. Significa che, insomma, anche questa squadra miracolo un po' alla volta la stanchezza alla prova. Ci sono tanti spunti di discussione su cui potrete intervenire, come fosse lunedì, chiamando l'800 24 00 24. Tra questi direi anche la buona prova complessiva degli arbitri, che ha subito riscattato quella certamente assai più negativa del recente fine settimana. Cominciamo dai commenti, anche perché le partite sono finite tardi e non tutti voi, anzi credo una piccola parte di voi sarà al corrente dei commenti, delle reazioni a caldo delle squadre, dei protagonisti di ieri sera. Per primo tocca a Beppe Baresi, che ha sostituito Mourinho sulla panchina dell'Inter a Catania. Sono orgoglioso di essere stato oggi l'allenatore di questa squadra, perché credo che abbia fatto una partita fuori dal normale. Mi sembrava di vedere, anche se l'ho vista poco, la vecchia Inter in 10 contro 11, soprattutto il secondo tempo, tenere in mano una partita difficile e riuscire anche a raddoppiare durante la partita. Una serata molto migliore di come si era annunciata, anche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'accoglienza. C'è stata molta civiltà, molto rispetto, nonostante appunto certe premesse non favorevoli, per esempio nei confronti di Mourinho, che è stato accolto con molta signorilità dal Catania. Non ci sono state intemperanze di sorta, e questo mi pare vada giustamente sottolineato. Poi certo la partita è andata in un certo modo. Dopo una strepitosa partenza dell'Inter era anche arrivato il pareggio, se è per quello. Insomma, non mancano per il Catania motivi di rimpianto. Sentiamoli riassunti dal suo allenatore, la Zenga. Abbiamo avuto tantissime occasioni e non ne abbiamo messa dentro neanche una. Molto semplice, perché quando con l'Inter hai 5-6 palle gol, alla fine poi ti resta tanta amarezza, perché hai fatto una grande prestazione e hai raccolto 0 punti, a parte i primi 7 minuti, perché i primi 7 minuti l'Inter è entrata in campo, ci ha messo lì nella nostra area di rigore e fino al gol di Stankovic noi abbiamo fatto male, però dopo dal gol di Stankovic fino alla fine c'è stata in campo solo una squadra. Preferisco essere criticato e fare punti, sinceramente. Mi restano le prestazioni, la grande voglia, la grande ricerca del gol, tutto quanto, però questo non fa classifica, non ti dà i punti necessari. E dopo una prestazione del genere con 5 giocatori fuori, perché noi avevamo 5 giocatori fuori, tra Ledesma, Biagianti, Carboni, Izco e Terlizzi, per noi è tanta roba. I ragazzi hanno fatto una prestazione stupenda e quindi meritavano sicuramente di fare il risultato. Beh, c'è stata in campo una sola squadra dopo il gol di Stankovic, mi sembra un tantinello eccessivo, perché è vero che era arrivato il pareggio di Paolucci, poi annullato dall'arbitro per una valutazione molto ma molto discutibile a parer mio, così come discutibile è poi stata successivamente l'espulsione di Muntari. Ma l'Inter si è giocata poi un'ora e passa di partita in inferiorità numerica contro una buona squadra, sia pure con troppe assenze, come Zenga ha ricordato. Ma è anche vero che a cavallo del 20° minuto io ricordo due grandi occasioni per Ibrahimovic che sono uscite veramente di un niente, e mi pare che la partenza dell'Inter fosse stata di una perentorietà e di una convinzione di quelle che, insomma, non ammettono repliche. Certo, se l'arbitro avesse valutato diversamente quel gioco pericoloso, probabilmente qualcosa poteva anche cambiare. Spostiamoci di campo e andiamo alla vera sorpresa della giornata, sorpresa poi per me molto relativa, perché mi pare che qualche segno di scricchiolio qualitativo la Juventus l'avesse già dato in queste ultime partite. C'era una legge dei grandi numeri per cui una squadra a sua volta di qualità come l'Udinese non poteva continuare a quella maniera, insomma è venuta fuori la combinazione incrociata, sicché al di là di un 2-1 finale che assolutamente non fotografa la partita, l'Udinese l'ha veramente fatta vedere poco ieri sera alla Juventus. Sentiamo Ranieri. Ci rimetteremo sotto e non molleremo, questo è normale, ma noi sappiamo che è difficile, ma sappiamo che vogliamo riuscirci a riavvicinarci. Abbiamo detto che sarà un campionato molto difficile. Siamo davanti noi agli inseguitori dell'Inter e proveremo ad accorciare di nuovo. Questo è quello che volevamo fare nel corso del girone d'andata e questo è quello che vogliamo fare adesso nel girone di ritorno. È logico che non si può chiedere a questi ragazzi che stanno tirando il collo da più di 3 mesi ogni volta la prestazione ottimale. Fin qua Ranieri è ovviamente deluso, ma insomma è giusto è giusto e normale che dopo una serie così lunga e così positiva, che era costata molto anche sul piano fisico e nervoso, era una squadra che a sua volta ha davvero tante assenze, era normale che prima o poi arrivasse la serata in cui si paga un pochino tutto. La Juventus ha ritrovato in compenso Trezeguet, sia pure per il momento a mezzo servizio. Sentiamo il francese microfono di Sky. Volevo tornare con una vittoria, purtroppo questa sera è andata male perché da fronte a noi abbiamo trovato una squadra come l'Udinese che ha fatto molto molto bene, ci ha messo in difficoltà, non ci siamo riusciti a fare una partita buona, per quello alla fine il risultato è stato negativo per noi. Quello che mi riguarda a livello personale, sono molto contento di poter rientrare insieme ai miei compagni dopo 4 mesi difficili. Spero da sabato poter dare un contributo in positivo questa volta rispetto a quello di questa sera. Contributo in positivo contro, vi ripeto, il Cagliari. Ci sono già parecchi ascoltatori collegati con noi, vorrei però almeno completare il discorso delle squadre di vertice. Poi arriveremo anche a quelle di seconda fila o comunque di prima fila bis, e poi arriveremo anche a quelle di coda, in particolare a Lecce, mi pare che ha sprecato ieri sera altri 2 punti. Il Lecce si è fatto raggiungere domenica scorsa in maniera abbastanza incredibile dal Torino, ieri si è fatto raggiungere all'ultimo minuto dal Chievo. Se guardando la classifica il Lecce avesse 4 punti in più, credo che oggi la situazione, come poteva tranquillamente avere, credo che la situazione salvezza oggi, o meglio retrocessioni, sarebbe praticamente definita. Così invece rimane aperta, anche se se ne è tirato fuori il Bologna, apparentemente adesso restano in 4 a lottare per un posto solo di permanenza in Serie A. Dicevo di completare il discorso sulle grandi e quindi sentiamo il commento di Ancelotti. Un ottimo primo tempo, pressando molto alto, e questo credo ci ha costretto ad avere un dispendio di energie che poi abbiamo pagato nel finale. Il fatto che non siamo riusciti a vincere una partita che penso, per quello che avevamo fatto durante tutta la gara, meritavamo. Abbiamo giocato molto bene e dispiace questo, il fatto che è un passo falso in un momento in cui la squadra sta bene. Questo è, diciamo, il rammarico più grande. Cosa ne pensa, mi domanda Stefano da Grosseto, di Giovinco, che per l'ennesima volta ha deluso? Questione di posizione in campo, i miei dubbi a riguardo, per me è troppo leggero. Per me invece è una questione di fiducia, è una questione di, per l'appunto, di fiducia e di continuità e di ruolo, nel senso che, non so, io non credo che Molinaro abbia più qualità di Giovinco, però Molinaro ha avuto tante possibilità, ha potuto sbagliare, lasciare qualche perplessità, ma insomma, essendo l'unico in quel ruolo, o comunque poi è venuto fuori dai cieli, ma insomma, essendo la principale risorsa in quel ruolo, l'allenatore ha insistito su di lui fino a che queste qualità sono venute fuori. Giovinco di qualità ne ha molte di più, ma se può metterle in mostra una volta, soltanto una volta ogni tanto, è un po' tanto difficile che ci riesca davvero. C'è un altro giocatore giovane, a proposito, saltando di palo in frasca, che invece le qualità le sta mettendo in mostra ogni volta di più, ed è questo esterno dell'Inter, Santon, che a parte che è in controtendenza perché è italiano, ma sembra davvero un signor giocatore in rapporto a un'età molto giovane. Mi è sembrato anche particolarmente appropriato ieri sera, appropriato una battuta di Beppe Baresi che, senza citare Balotelli, ha detto a proposito dei diciottenni: Santon sta facendo vedere come ci si comporta in campo e fuori, qualcosa del genere, e mi pare che fosse quanto mai pertinente. Gasperini, l'allenatore del Genoa. Il primo tempo il Milan ha fatto sicuramente più di noi. Noi avevamo deciso di aspettare un po' questa squadra, di giocare un po' più bassi, e loro, insomma, per poi magari giocarci qualche opportunità in più nel secondo tempo, dove avevamo dei giocatori in panchina che potevano entrare freschi e dare un contributo maggiore poi in attacco. Purtroppo c'è stato questo gol, devo dire che loro sui calci piazzati sono stati veramente strepitosi, perché tra Beckham, Pirlo e anche lo stesso Ronaldinho sono stati veramente pericolosi. Poi secondo tempo abbiamo fatto bene, indubbiamente abbiamo fatto una buona gara, abbiamo segnato un po' tardi, abbiamo avuto altre opportunità, però c'erano le condizioni poi di fare bene, però credo che tutto sommato il pareggio sia un ottimo risultato. È un ottimo risultato, sì. Il Genoa ha respinto almeno per il momento l'assalto della Roma al quarto posto. C'è ancora un punto a dividere le due, ma insomma, che la Roma a inizio stagione, prima di partire, non dopo la crisi impressionante iniziale, che la Roma fosse al quarto posto prima di cominciare il campionato poteva essere addirittura una sottostima, no? Per una squadra che l'altro anno si era giocata il titolo fino a 20 minuti dalla fine. Che al quarto posto ci potesse essere il Genoa, beh, insomma, bisogna avere una discrete dote divinatorie per arrivarci. Andrea ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io ieri sera mi sono emozionato vedendo i giocatori dell'Udinese abbracciare Marino. Volevo fare i miei complimenti a Pozzo, perché è un grande presidente, e volevo sottolineare il lato umano di questa cosa. Molti presidenti eliminano gli allenatori, vedi Zamparini, vedi dopo qualche 3-4 partite. Resistere, vedere quello che ho visto ieri sera, vedere una squadra unita, una squadra che rema tutta la stessa parte, l'altra faccia del calcio, quella più bella di tante altre che vorrei vedere più spesso. La ringrazio. Grazie a lei, Andrea, in effetti. Ma sa, quest'anno è un anno in cui mi pare ci sia più pazienza da parte delle società, forse una recipiscenza positiva, non lo so. Ora, che quella di Pozzo certamente è stata una pazienza da job, perché una squadra come l'Udinese, che ha una serie negativa così lunga, in effetti faceva sensazione. Ma se pensiamo che la pazienza l'ha avuta Cellino, che non ha mai saputo cosa fosse, l'ha avuta con Allegri e ne è ricambiato attualmente in un modo quasi incredibile, beh, vuol dire che potrebbe essere, ripeto, l'anno di una ritrovata saggezza da parte perlomeno di alcuni presidenti. Da Milano, Marco, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Buongiorno. Volevo sapere la sua, diciamo, la sua idea, la sua posizione su questo. Io ieri sera ero a San Siro, non so in quanti eravamo, di sicuro tutti i milanisti, perché il Genova non ha potuto seguire la squadra, e c'è stato tutto lo stadio che ha visto che cosa non funziona nel Milan. E nel Milan non funziona, secondo me, il suo allenatore con i suoi pupilli, a partire da Sedor. Quando ha tolto Sedor e ha tolto Pato per mettere Ronaldinho, non Sedor, è venuto giù lo stadio. Però tutti i tifosi l'hanno visto, l'hanno capito, hanno fischiato. Non ho sentito né Ancelotti fare un piccolo mia culpa, né nessun giornalista chiedere come mai si comporta così, a parte la Gazzetta stamattina che gli ha messo Sedor 5 dicendo gioca solo con Ancelotti perché, punto interrogativo. Però Io le pagelle della Gazzetta stamattina io ne ho trovate anche di comiche dal mio punto di vista. Ho visto che Rubinho è stato testualmente giudicato incolpevole per tre virgolette sul gol di Beckham. Beh, insomma, credo che si possa discutere, nel senso che Rubinho sul gol di Beckham ha commesso due errori. Il primo è di aver piazzato male la barriera, il secondo è di essersi piazzato male lui. Poi con tutti gli applausi che merita un tentativo come quello di Beckham, ma con una barriera ben messa e un portiere altrettanto, quella quello è un pallone che al massimo si alza di pugno in angolo senza neanche tuffarsi. So che Ancelotti è stato pesantemente contestato ieri sera dal pubblico per questi cambi. Che Ancelotti abbia un debole per Seedorf non lo scopriamo oggi. Che questo debole sia maturato negli anni attraverso quello che Seedorf ha dato lui al Milan, soprattutto nelle occasioni chiave di questi anni, credo che sia altrettanto incontestabile. Chiedere a me se ha sbagliato o meno i cambi ieri sera, sinceramente, con 10 partite in contemporanea, lei capisce che i particolari tecnici e tattici di ogni singola partita è un po' difficile metterli insieme l'indomani, sia pure avendo cercato poi tra serata e nottata di vedere, di documentarsi per quanto era possibile. Il discorso su Carlo Ancelotti secondo me sarebbe abbastanza lungo perché chiama in causa anche altri giocatori che ieri sera erano in serata negativa, per esempio Kakà, protagonista assoluto a Bologna, e ieri sera mi dicono e ho letto, insomma, quelli di cui mi fido, praticamente non pervenuto. È un modulo difficile quello da attuare, un modulo dispendioso, l'ha detto lui stesso, che se si pressa all'inizio, sottinteso, a quell'età e con giocatori di quelle caratteristiche, insomma, poi alla fine contro una squadra come il Genoa si può anche andare in apnea. Io credo che il Milan sia stato anche sfortunato perché non... Le due traverse di Pirlo, parla una traversa mi pare insomma su punizione, in un momento, in un tempo in cui la superiorità del Milan era netta, insomma, credo che possano anche integrare non l'alibi ma insomma la motivazione anche di un po' di sfortuna. Da Ferrara, Vincenzo, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, sono Vincenzo da Ferrara. Volevo dire, io sono simpatizzante dell'Inter, non tifoso. Secondo me il campionato non è assolutamente chiuso. Il vero valore dell'Inter lo vedremo contro il Manchester. Volevo sentire un suo parere. Lo ascolto per radio, buongiorno. E il vero valore dell'Inter si vedrà anche contro il Manchester. Però, insomma, in un caso come... Sì, non, io penso che non sia chiuso il campionato, perché siamo alla seconda di ritorno. Il che vuol dire che ci sono 17 partite da giocare, ci sono 51 punti in palio, come farebbe a essere chiuso il campionato? Certamente l'ostacolo più alto per l'Inter tra campionato e Coppa sarà in Coppa, ma questo lo si sapeva già prima che iniziasse la stagione, a maggior ragione dopo il sorteggio. Tarek da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi dato questa possibilità. Niente, sono tifoso della Juve, ho un grande rispetto e ammirazione per l'allenatore, il nostro allenatore, il signor Ranieri. Però vedo che non ha cattiveria abbastanza per scuotere la squadra quando al momento ha bisogno, quando la squadra smarrisce nel campo come abbiamo visto ieri. L'ascolto per radio, grazie. Mi pare che lei abbia assimilato immediatamente, ci sia ambientato diciamo in Italia, no? Perché il suo nome Tarek, è evidente che segnala origini diverse dalle nostre, ma mi pare che le abitudini siano le stesse, perché guardi, per qualsiasi sconfitta nel calcio italiano o risultato negativo, e l'abbiamo appena sentito a proposito di Ancelotti prima e adesso per Ranieri, i possibili colpevoli sono due in ordine di preferenza: il primo è l'arbitro e il secondo è il proprio allenatore, tertium non datur. Quindi è normale che Ranieri, dopo mi pare 13 partite utili consecutive, di cui 11 vittorie, se non sbaglio sia ridiventato uno su cui come minimo si può discutere. Sto aspettando, se per caso la Juventus non dovesse battere il Cagliari, sto aspettando l'inizio di una nuova campagna di stampa del quotidiano sportivo torinese che ricominci a dire che la disgrazia è Ranieri, come ha fatto gloriosamente durante l'autunno prima di essere spernacchiato dai risultati. Alberto da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo sapere, ho appena letto un'agenzia circa la squalifica di un anno di Possantini e Mannini. Sì. Innanzitutto se è vero. È vero, è vero. E seconda cosa ne pensava? Guardi, le faccio rispondere da una persona più competente che abbiamo convocato d'urgenza, che è Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che si occupa anche di questa... di questa vicenda, comunque di tutto quanto è collaterale al mondo dello sport, perché certamente il suo è un parere più documentato e più autorevole. Lo facciamo subito dopo l'intervallo dei mercati, tra una decina di minuti. Roberto da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Torino. Sì. Io le volevo fare i complimenti soprattutto per l'obiettività nel giudicare gli episodi e anche in generale, perché ieri lei l'ha accennato, il gol annullato contro l'Inter era un gol regolare, l'arbitro ha invertito tranquillamente quel fallo, il gioco pericoloso era del difensore che si è buttato con questa... a livello del piede del Catania. Quindi... Roberto, questa è la tesi, io la penso così, ho letto stamani che Casarin per esempio la pensa così, ho letto anche che altri, ma non parlo di muvioristi, altri ex arbitri, altri giocatori, altra gente che a calcio ha giocato o l'ha arbitrato la pensa diversamente. Credo che sia uno di quegli episodi in cui qualunque cosa tu decida sbagli, oppure qualunque cosa tu decida tu abbia ragione, siamo al 50%. Io in quel 50% lì non fischio, anche perché l'attaccante della Catania non sta guardando l'avversario, sta guardando il pallone, quindi non c'è nessuna volontarietà, però è un episodio al limite, insomma. Dica. Non è giusto che gli altri giornalisti, però ieri vedevo la partita, così come la partita precedente, il fallo di mano di Burdisso e l'altro intervento su Gilardino, non vengono rimarcati per nulla da chi commenta le partite. Quindi mi sembra che ci sia un po' un appecoramento da parte di tanti colleghi suoi che non fanno bene il loro servizio perché non hanno obiettività. Beh, a parte, insomma, io non lo so, ciascuno risponde di sé. Io non credo che sia così, anzi mi pare che ci sia una ricerca semmai da parte, se parla della categoria, mi sembra che il problema sia il contrario, cioè una ricerca esasperata invece dell'episodio ad ogni costo, no? Al di là invece di una disamina obiettiva della partita. Ma l'obiettività non è una cosa che si compra al supermercato. Io non so se lei ha sentito in avvio di trasmissione i due pareri di Zenga e di Baresi. Allora, Baresi e Zenga hanno giocato insieme per una decina d'anni, sono amici, se non fraterni, comunque sono amicissimi. Uno ieri sera allenava l'Inter, l'altro allenava il Catania. Abbiamo appena sentito dire che Zenga in campo c'è stata solo una squadra, che era il Catania, dopo il gol iniziale di Stankovic, e Baresi che in campo c'è stata praticamente solo l'Inter. Quindi lei vede che se è difficile un giudizio globale, cioè se è difficile l'obiettività su un giudizio globale che riguarda una partita intera, si immagini quella su un episodio discutibile come quello di ieri sera. Da Ancona, Giovanni, buongiorno. Buongiorno Valentino. Dica. Volevo fare due considerazioni per quanto riguarda la Juventus. Ieri sera che ha subito nominazione tattico-tecnico dalla parte dell'allenatore dell'Udinese, perché io che sono un dilettante, dopo 2 minuti, 5 minuti mi sono accorto che loro giocavano con due aree tattiche sulle fasce, tenendo i due centrali senza centravanti, e il minimo che doveva fare subito togliere Melzer e far entrare Poulsen per aiutare... Dopo due minuti, perché cioè... loro, tanto Quagliarella che Di Natale, si vedeva che giocava, teneva giù i due laterali, sinistro e destro della Juventus. Cioè... A quel punto il centrocampo con un Nevede, non voglio offenderlo, ma il centrocampo era 4-2, diventava perlomeno 4-3. Ci siamo stati umiliati. Le piccole squadre di Catanzaro, Mammino, non esistono più. Ora le piccole squadre hanno un gioco, ti umiliano facilmente, anche perché le grandi squadre, rispondendo all'ascoltatore precedente per quanto riguarda Ancelotti, sono un po' condizionate dagli sponsor, da queste situazioni. Questo sì, però lei ha usato a ripetizione la parola umiliare. Io non capisco perché cosa ci sia di umiliante nel... se l'avversario una volta è più bravo di te, o a impostare una partita o a... E poi a maggior ragione se riesce a concretarla, a concretizzarla sul campo. L'umiliazione non la trovo. Un allenatore che abbia sostituito un giocatore per ragioni tattiche dopo 2 minuti non c'è mai stato nella storia dell'umanità, non del calcio. Quindi vediamo di non esagerare. Francesco da Biella, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. Francesco da Biella, senta, io le devo chiedere, io non riesco a capire una cosa. Io ho visto la partita della Juventus ieri sera. Allora, sembrava vedere la formazione del Viva il Parroco contro il Real Madrid. Passaggi sbagliati a 2 metri. Sembravamo proprio un... Sono tifoso della Juventus. Ma eh? Questo non l'avevo immaginato. Sono tifoso, però sono anche riesco a vedere in modo obiettivo le partite. Ecco, questo magari lo discutiamo. Ecco, sembravamo una squadra proprio alla frutta ieri sera. Non ho mai visto, è la prima volta che vedo la Juventus giocare in questo sistema. Noi stiamo aspettando Camoranesi, che quest'anno non l'abbiamo mai avuto. Trezeguet ha giocato un quarto d'ora ieri sera. E con tutte queste e un sacco di altri infortuni, eccetera, e un organico di partenza oggettivamente inferiore a quello dell'Inter, la Juventus comunque è a 6 punti dall'Inter. Quindi certamente da ieri sera è messa peggio di quanto non lo fosse alle 8:30, alle 8:29. Però è competitiva lo stesso, no? Almeno sino a questo punto, ed è ai quarti di Champions League. Beh, insomma, mi sembra che male non se la sia cavata con queste premesse. Francesco, grazie. Intervallo, sì, per i mercati, direi. No, c'era ancora un ascoltatore forse in attesa, che però mi è sparito dal display. Ah, Francesco Rabiella, buongiorno. No. Francesco Rabiella, era questo, domando scusa alla regia, ma era l'ultimo andato in onda, non è grave. In compenso c'è Marco Bellinazzo già pronto a entrare in studio, anche per rispondere all'amico bresciano di prima, in ogni caso per riassumere questa vicenda, questa squalifica, Possanzini-Mannini, per un anno, decisa stamattina dalla Vada. Mi ha raggiunto in studio Marco Bellinazzo, bentornato. Buon pomeriggio. La notizia da commentare è la seguente: Mannini, ex Brescia, oggi al Napoli, e Possanzini sono stati, del Brescia, sono stati squalificati dal TAS, Tribunale Amministrativo dello Sport, per essersi presentati in ritardo a un test antidoping dopo Brescia-Chievo del dicembre 2007. Allora, l'iter abbastanza incredibile è che la Federcalcio aveva assolto i due giocatori, il Tribunale Nazionale Antidoping in seconda istanza li aveva condannati a 15 giorni di squalifica già scontati, la Vada, Agenzia Mondiale Antidoping, aveva però fatto ricorso e ha ottenuto questa sentenza che scadrà per via dei 15 giorni di sospensione già combinati e scadrà il 14 gennaio del 2010. Allora, come può essere accaduto tutto ciò, Marco? Questa vicenda è enigmatica per certi versi e emblematica per altri. Diciamo che è andata bene due giocatori, perché la Vada aveva chiesto addirittura 2 anni di squalifica, quindi visto l'andazzo potevano anche beccarsi il doppio di peggio, il doppio di penalità. In qualche modo l'avevamo, diciamo, preannunciata questa squalifica quando la scorsa settimana abbiamo parlato delle nuove regole antidoping, proprio perché ho avuto l'impressione, ma si è avuta l'impressione in genere, che la Vada stesse, come dire, aspettando un caso emblematico, un caso importante, e quelli del calcio hanno ovviamente grande risonanza per far capire, insomma, che la situazione è cambiata, il vento è cambiato, che il pugno duro contro il doping non vedrà più, diciamo, possibilità di deroghe, o non ci sarà più la possibilità, diciamo, di un'applicazione morbida delle regole. E questo va bene per un aspetto, non va bene, credo, no? a parer più o meno unanime nostro, e anche di chi ha già reagito a questa sentenza, a parte l'avvocato Grassani, che è parte in causa, nel senso che è il difensore di Mannini, però l'avvocato Grassani è uno che di diritto sportivo se ne intende. Mi sembra che ci sia comunque, cioè che sia stato preso davvero un caso limite, perché era acclarato che questi due giocatori, lo ricordo a beneficio di chi non avesse seguito la vicenda, erano stati trattenuti in spogliatoio dal loro allenatore alla fine una partita persa, e per una leggerezza indubbiamente della società, dell'allenatore e loro, si erano presentati in ritardo all'antidoping. Ora, questo era valso tutti quei gradi di giudizio che abbiamo detto, ma insomma da lì a un anno di squalifica mi sembra davvero... E come avevamo ricordato, per la Vada ormai la mancanza a un controllo, o il ritardo a un controllo, o il venir meno alle regole, diciamo, sulla reperibilità di cui abbiamo parlato, ormai equivale al doping. Peraltro Mannini e Possanzini avevano sostenuto poi il controllo antidoping ed erano stati, diciamo, non erano stati trovati in positività dal punto di vista delle norme antidoping. La società, infatti, il Brescia si è difesa dicendo che i due giocatori erano puliti e non si erano dopati. Certo. L'atteggiamento della VAD è più diciamo rigoroso, perché secondo la VAD esistono diciamo delle tecniche che consentirebbero in quel lasso di tempo che abbiamo ricordato, 25 minuti, mezz'ora, in qualche modo di intervenire, di ripulire le urine che poi sono state oggetto del controllo, e quindi il sospetto, visto che è venuto meno il controllo visivo dell'ufficiale addetto al controllo ai giocatori che erano chiusi nella stanza, fa sì che per la VAD questo equivalga a doping. Chiuderei leggendo una notizia dell'agenzia che tu stesso mi hai segnalato ieri. Rafael Nadal, e cioè il numero uno del tennis al mondo oggi, ha dichiarato ieri: il nuovo codice antidoping perseguita il tennis e lo sport e non ha rispetto per la privacy. È una vergogna, ha detto a ripetizione, soprattutto se si pensa a uno sport come il nostro. A proposito della reperibilità, ha dichiarato: nemmeno mia madre o mio zio coach a volte sanno dove mi trovo. Mi sembra un'esagerazione dover mandare un messaggio o angosciarmi se c'è un cambiamento di programma. Questo perché, e aggiunge che tutti i giocatori la pensano così. Ricordo che se un atleta risulta irreperibile per tre volte nell'arco di 18 mesi rischia sanzioni molto gravi fino a due anni di squalifica. A parer tuo, si sta andando verso, non dico una rivoluzione, ma quasi, da parte degli atleti di varie discipline e di tutto il mondo? Io ho l'impressione che si stia rendendo conto che queste regole sono effettivamente molto gravose, in particolare per gli atleti di elite, alle quali sono oggettivamente mirate, e man mano che insomma gli atleti stanno rendendo conto di come cambierà la loro vita nei prossimi mesi, credo che reagiranno, e reagendo poi atleti come Nadal, insomma i numeri uno delle varie discipline, la VAD dovrà tenerne assolutamente in considerazione. Grazie allora Marco. Grazie a voi. Oggi era un intervento più breve, un intervento di servizio. Ovviamente terremo sotto controllo, oltre a tutto il resto di cui siamo abituati a conversare giovedì, in particolare questa vicenda. Torniamo al calcio. Scrive Dario: sul Corriere di oggi Mario Sconcerti invita i commentatori a guardare gli episodi arbitrali solo a velocità normale, come li può vedere l'arbitro. Lei è d'accordo? Ma io ero d'accordo 10, 20, 30 anni fa su questo. Io abolirei la moviola, non invece di portarla in campo, l'abolirei dagli studi, in quanto moviola che rallenta. Si può, a parer mio, far vedere a esaurimento, a sfinimento, qualsiasi episodio a velocità normale, che è la realtà. La velocità della moviola è sfalsata, e in 8 casi su 10 sfalsa davvero la realtà, non dà la possibilità di capire. Quindi il fatto che Sconcerti la pensi alla stessa maniera non solo non mi turba, ma mi conforta. Damiano da Roma, buongiorno. Buongiorno dottore, complimenti. Volevo chiederle una cosa sulla Roma, ovvero, visto la caccia alla Champions che sta facendo, il risultato di ieri di Milan-Genoa è stato un risultato positivo, in quanto potrebbe attaccare anche il terzo posto, o era meglio che il Genoa magari perdesse? E allo stesso tempo, se il Palermo, il forte possesso palla che ha fatto, ha dato dai primi segni di rottura della Roma dal punto di vista del gioco? Grazie. Il Palermo è una buona squadra che sta attraversando un buon momento e quindi può tranquillamente mettere in difficoltà la Roma e meritare di più di quanto non abbia invece poi raccolto ieri sera. Dire se sia meglio o se sia peggio, insomma, ripeto, ci sono 51 punti in palio, cioè tutto il tempo. Io credo che la Roma abbia il Milan nel mirino, e non escludo nemmeno che abbia la Juventus nel mirino, perché ripeto, con tutti quei punti in palio e con le qualità della Roma, visto che il prossimo anno andranno in Champions League direttamente tre squadre e solo la quarta farà i preliminari, credo che l'obiettivo della Roma sia innanzitutto l'Arsenal, sia fare più punti possibili in campionato, ma sia anche, con questi punti possibili, provare a piazzarsi al secondo o al terzo posto. Questo immagino. Immagino anche che la Roma stia affrettandosi a tornare sul mercato, perché nel giro di tre giorni ha perso due difensori. Ieri sera ha perso gravemente Cassetti, che ha un infortunio muscolare. Praticamente la stagione finita, o quasi, dato che Cassetti gioca anche nel ruolo di Panucci, che aveva lasciato praticamente, si è messo fuori gara da solo quattro giorni fa, credo che la Roma debba tornare urgentemente sul mercato, oppure trovare il modo di sistemare la vicenda Panucci. Dalla provincia di Milano c'è Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo tornare un attimino su una questione tecnica riguardo i Prandelli. mi sembra che si sta un attimino assistendo a, a un'involuzione di Prandelli, perché con l'acquisto di Bonazzoli e le cessioni definitive di Pazzini ed Osvaldo, anche ieri sera mi sembra di aver visto una partita con solo lanci lunghi quando ha messo dentro Bonazzoli. Se per caso Gilardino dovesse saltare qualche partita, la Fiorentina secondo me ha avuto un mercato di riparazione in negativo. Marco, non le so dire, credo che la Fiorentina più in generale non stia mantenendo, insomma, stia facendo fatica a mantenere le attese della vigilia. Lo si è visto in Coppa e adesso lo si sta vedendo anche in campionato, al di là di qualche disavventura arbitrale recente, al di là della vittoria di ieri sera meritata, ma non poi questa cosa trionfale che ho letto, e quindi insomma sinceramente di più non ne saprei, tantomeno dopo una partita di ieri che, ripeto, con 10 contemporanee è duretta metterle tutte nel mirino in maniera approfondita. Di Cassano non se ne parla? Domanda un ascoltatore. No, se ne parla come? Molto volentieri. Un grande gol. Ecco, a proposito di gol, anche lì, però qui ci vuole una premessa. La premessa è che non ce l'ho affatto con Beckham, anzi sono il primo a riconoscere che Beckham sta giocando e rendendo molto, molto, virgola, ma molto di più di quanto personalmente mi sarei aspettato. L'umiltà, per lo spirito di sacrificio, se vogliamo, per la professionalità con cui si è messo a disposizione, non tanto di Ancelotti, ma della squadra, dei meccanismi e delle esigenze della squadra. Quello che finisce per rendere non antipatico Beckham, ma per rendere un po' fastidioso tutto il meccanismo, quello che qualcuno chiamerebbe ambaradan, che cos'è? È che, per esempio, visto che il calcio è diventato marketing, oggi il gol del giorno sulla Gazzetta dello Sport, cioè sulla Bibbia degli sportivi e dei calciomani, il gol del giorno è la punizione di Beckham, quando ha fatto un capolavoro Quagliarella ieri sera con un coefficiente di difficoltà altissimo, ha segnato un gol al volo Vives, quello del Lecce, con un tiro sensazionale. Cassano ha fatto una cosa di altissima qualità, il gol di Stankovic per la qualità dell'assist di Cruz e il tempo di inserimento di Stankovic è perfetto, e altri ancora. Beckham ha tirato una punizione laddove avrebbe dovuto esserci il portiere se non avesse messo male la barriera e si fosse messo male lui. Ecco, quindi è questo che dà fastidio, non di Beckham, ma di tutto quanto ruota intorno. Beckham, ripeto, è uno a cui dopo queste 3, 4, 5 giornate da parte di chi come me era profondamente scettico non c'è nient'altro che da levarsi il cappello. Da Pescara ha chiamato Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io sono un interista. Stefano, scusi, le chiedo scusa. Lei è un interista, ma io non ho guardato l'orologio e devo chiederle un minuto di pazienza perché dobbiamo dare il traffico. Era già in linea Stefano da Pescara, mi scusi, prego. Sì, no, nulla. Senta, io volevo parlare un po' dell'Inter, della partita di sera, alla luce di quello che ha detto Baresi, nel senso la vecchia Inter. Infatti facevo una riflessione sul fatto di questa differenza, al di là della simpaticità, la simpatia del personaggio, eccetera, eccetera, ma se ne parla poco, dei risultati di quello che ha ottenuto il Mu, di quello che ha ottenuto Mancini, che alla fine tutta questa grossa difficoltà non la vedo. Si è rivista una squadra che ha mostrato gli attributi come altre volte in passato, però questo salto di qualità, questo enorme salto di qualità, sinceramente non mi sembra di vederlo. Volevo sapere cosa ne pensa lei. Ma io penso che ieri sera l'Inter abbia giocato una partita molto difficile e che è stata resa ancora più complessa e difficile per la situazione. La precedente trasferta ha preso 3 gol dall'Atalanta e quindi era chiaro che era in un momento un po' difficile. C'erano stati problemi interni, ce ne sono ancora, basti pensare al caso Balotelli, ma che non è l'unico comunque, e quindi giocava su un campo dove non è facilissimo giocare, e invece insomma mi pare che abbia, come dire, rubato l'idea al Catania di una partenza autoritaria, di quelle che fanno sentire subito il segnale. In genere in quei casi è la squadra di casa provinciale che parte mentre a terra e intimorisce in senso sportivo la grande squadra, invece è andata al contrario, è stata l'Inter che ha messo subito in chiaro quali erano i rapporti di forze, e aver poi gestito un'inferiorità numerica per un'ora contro una squadra forte come il Catania e che corre come il Catania, mi sembra che sia un grosso rilancio. Poi i paragoni, c'è tempo, dai. Gianni da Pesaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Fra i tanti gol che lei ha elencato, ha saltato quello di Natale, purtroppo, visto che sono un tifoso juventino. Sì, ho saltato di Natale, che è un bellissimo gol, però quello di Quagliarella è molto più difficile, sì, come coefficiente, sì, perché no, Quagliarella fa uno smarcamento prima, una torsione poi, trova un angolo trepitoso. Purtroppo, ahimè, visto che sono juventino, ahimè. Però volevo parlare, ecco, della Juventus. Onestamente la sconfitta è più che meritata, perché è un periodo che la Juventus non è che stia giocando proprio un granché bene. Anche contro la Fiorentina meritava di perdere, perché la Fiorentina ha molto da recriminare, le devo dire la verità. Per cui sono un pochino deluso da questo momento, diciamo, della mia squadra, ecco, del cuore. Mm-hmm. Per cui, se magari un consiglio da lei, un qualche conforto, magari, ecco, così sarei molto grato. Il confortare i juventini credo non faccia parte proprio del mio DNA, è proprio una questione di sangue, è una questione genetica. Quindi no, ragionare su come sta andando può essere. Il conforto vale per praticamente per tutti, ma insomma, in particolare direi. Direi che è il caso di ripassare la data, la storia, quindi la data di oggi, 29 gennaio, cosa è successo? Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 gennaio 1956. La Fiorentina di Fulvio Bernardini chiude il girone d'andata con una vittoria per 3-1 sul Genoa, grazie alle reti di Virgili, Cervato sul rigore e Montuori. I viola legittimano così il titolo di campioni d'inverno, ottenuto con 5 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica. Nel girone di ritorno la marcia scudetto manterrà un ritmo costante. La Fiorentina conquisterà il suo primo campionato con 12 punti di margine sui rossoneri e con un bilancio di 20 vittorie, 13 pareggi e una sconfitta rimediata proprio contro il Genoa all'ultima giornata. Il dominio esercitato dai viola sarà talmente palese da svuotare di significato la scelta della federazione di affidare le gare finali ad arbitri provenienti dall'Austria. C'è qualche messaggio che sollecita a parlare un po' anche di portieri. Ieri sera, per esempio, mi è molto spiaciuto quel gol che ha preso il portierino del Napoli, Seppe, quasi alla fine, insomma, perché insomma, è il quarto portiere del Napoli. Allora, i primi due non sono stati neanche convocati per infortunio. Il terzo si fa male durante la partita, entra il quarto, fa un paio di buone cose e poi prende un gol che... insomma, un gol evitabile, perché sto tiro di Montolivo era centrale, la palla gli passa un po' sotto, però il tiro era molto forte e visto, a proposito di sconcerti, visto la velocità normale, non era poi questo errore che invece con Ralenti, che falsa le immagini, ripeto, con la moviola, non era poi questo errore che sembrava, però insomma, sto ragazzino meritava forse un esordio più fortunato. In compenso ho visto una parata mostruosa di Abbiati ieri sera su un colpo di testa di Milito a San Siro, poi non è riuscito a salvare il gol del pareggio, ma in precedenza moralmente Milito aveva già pareggiato, perché meglio di così non può incornare quella palla, e Abbiati è andato a prenderla in un modo strepitoso, assolutamente. Tocca a Carlo da Genova, buongiorno. Buona giornata, dottore. Dica. Senta, io niente, genoano, faccio i complimenti al Milan per il primo tempo, dove ha dimostrato veramente di essere una squadra di campioni, perché non ci ha fatto giocare assolutamente. Qui vorrei, ecco, fare un attimino un appendice, perché spesso da parte della tifoseria delle squadre molto titolate c'è il concetto che le altre squadre siano da asfaltare e basta. Genoa ha dimostrato di essere un ottimo collettivo, non ha espresso assolutamente fase di rilancio, se non più di tanto nel primo tempo, ma secondo me, e qui vorrei arrivare alle critiche su Seedorf, questo non è stato possibile proprio perché comunque Seedorf è stato un collante e in fase anche di interdizione eccezionale, e ha permesso comunque poi a quei grandi campioni che ha il Milan di esprimere un certo tipo di gioco. Seedorf delle figurine è quello che corre di più, caro Carlo, e però ormai da anni passa nell'immaginario rossonero per il cocco di Ancelotti, no? Come si sarebbe detto un tempo, non so come si dice oggi, per cui a prescindere Seedorf non va bene, non funziona, andrebbe sostituito prima, non andrebbe fatto giocare in molte occasioni e finché ce n'è, perché di quelle figurine, ripeto, è quella meno suggestiva o forse meno pompata dal marketing, e soprattutto non è una figurina. Emanuele da Ferrara, buongiorno. Sì, salve, buongiorno e complimenti. Intanto mi lasci dire, la rubrica di Filippone oggi, bellissima, da un tifoso della Fiorentina che non ha mai potuto esultare per uno scudetto, insomma, almeno ricordare quelli che sono stati vinti prima della mia nascita, chissà mai che ne festeggeremo uno, insomma. Sì. La mia domanda è questa, tra i giovani, veramente giovani, diciamo De Ceglie o questi altri, insomma, o Franceschini della Sampdoria, che stanno uscendo in questa stagione, su quali lei veramente scommetterebbe come un pilastro della nazionale fra almeno 5-6 anni, immagino? E poi un'altra cosa... Ma tra chi, magari... scusi, tra quali giovani? Tra i giovani, proprio quelli che sono usciti in questa stagione, diciamo, ecco, che sono apparsi veramente alla ribalta, non quelli già noti, perché Giovinco ormai, insomma, è un giocatore che, per quanto, è molto pubblicizzato. E poi una nota, voglio dire, da tifoso della Fiorentina, non le sembra strano, visto anche addirittura che la stessa Inter propone dei primavera in prima squadra, la Juventus non ne parliamo, la Fiorentina, che da anni ha sposato un progetto giovani, non è in grado di proporre un giovane primavera a livello della si vede squadra. Che la covata non è, insomma, bisogna aspettare che ne maturi un'altra. Sarebbe un po' lungo mettersi qua a esaminare quali sono tutti i ragazzi che il campionato ha proposto, insomma. Io ne dico due, certamente un attaccante acqua fresca sicuro e un difensore Santon, ma senza ombra di dubbio in proiezione. Poi ovviamente diamo il tempo a Santon di darci delle controprove, ma le prime uscite, anche per la perentorietà e la personalità, sono quasi impressionanti addirittura. Antonio da Vicenza, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Niente, io chiamavo perché volevo sapere un suo commento per quanto riguarda, premetto che sono un tifoso del Palermo, niente, per quanto riguarda ieri il commento lì che è successo per l'errore dell'arbitro, fischiato il fuorigioco su errore di Liverani, cioè su un retropassaggio che è stato un grande errore dell'arbitro, premetto questo, ed è venuto fuori un putiferio ieri sui commenti sportivi, nessuno però ha premesso che ha detto che è stato fischiato un grandissimo fuorigioco a Cavani da dentro centrocampo della parte del Palermo, che nessuno ha commentato. Nessuno, cioè, premetto questo. Antonio, mi sono dimenticato anch'io. No, non ho pensato a un'edizione straordinaria di A Tempo di Sport per questo fuorigioco a Cavani e per quello di Liverani. Non le dico quale sarebbe stato il commento di Rocco a questo intervento finale. Il Paron avrebbe detto mancava un, e poi vi lascio alla fantasia o alla memoria di chi lo ha conosciuto e di chi lo ricorda. Le 14:57 quasi, dunque grazie a Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione, spazio al giornale radio.